In Etiopia si rischia la guerra, si è cominciato in realtà già a combattere dopo mesi di tensioni, anzi forse anni di tensione che qui in Europa, anche in Italia e nel mondo forse non sono state capite appieno. In Etiopia dall'aprile 2018 è primo ministro Abiy Ahmed, un protagonista nuovo, quarantenne della scena politica, che è stato insignito del premio Nobel per la pace per un accordo di riconciliazione siglato con l'Eritrea dopo 20 anni di tensione e conflitto. Ebbene, questo riconoscimento forse non sempre, anche da un punto di vista del racconto giornalistico, è stato accompagnato all'aggiornamento puntuale di tensioni che in Etiopia, penso anche alla realtà di un paese enorme, uno dei più popolosi di Africa, oltre 100 milioni di abitanti, in una regione chiave, il Corno d'Africa, peraltro con legami anche storici, anche difficili, anche tormentati con l'Italia. Ebbene, in questo paese, in questo colosso in grande crescita economica, almeno nel periodo negli ultimi anni, si agitavano tensioni forti fino a un punto di rottura, e una delle chiavi di lettura è senz'altro la riforma federalista impressa al paese negli ultimi due decenni, e quindi i rapporti tra le realtà regionali. Tra queste c'è evidentemente il Tigray, una regione dove abitano oltre 5 milioni di abitanti, stretta tra i confini di Sudan ed Eritrea, e il centro federale, rappresentato, se vogliamo dare un nome, un volto a questo centro federale, evidentemente dal primo ministro Abiy Ahmed, che è impegnato ora in quella che è descritta come un'offensiva di polizia di scopo limitato, che però, ci raccontano dal Sudan, ha già provocato, è notizia di questa mattina, oltre 6.000 rifugiati, persone che hanno attraversato la frontiera tra la regione etiopica del Tigray e il Sudan. E ancora da Khartoum, dal Sudan, ci dicono rappresentanti delle Nazioni Unite, il rischio che ben 200.000 persone potrebbero, non fermandosi le operazioni militari, attraversare la frontiera e raggiungere il Sudan. La miccia si è riaccesa, diciamo, in modo così cospicuo nel settembre scorso, no? Quando ci sono state elezioni locali proprio nel Tigray che il governo non ha riconosciuto. Sì, c'è stato uno scontro, un muro contro muro, appunto una richiesta da parte del governo federale di posticipare le elezioni anche nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. E però una risposta negativa dall'altra parte, è il fronte di liberazione popolare del Tigray, il partito forte radicato a livello regionale, che è andato avanti con le elezioni che non sono state riconosciute dal governo federale. C'è stato poi un passaggio parlamentare con lo stop deciso dal Parlamento di Addis Abeba ai trasferimenti di fondi dal centro federale verso Makalè, che è il capoluogo della regione del Tigray. E poi pochi giorni fa, la settimana scorsa, i primi scontri, c'è stata una denuncia etiopica di un assalto a una base militare nel Tigray dell'esercito federale, quindi accuse su sottrazione di armi. E poi ci sono stati, notizia questa di fonte evidentemente ufficiale, quindi da confermare con fonti indipendenti, la emittente di Stato dell'Etiopia racconta di 550 morti tra le unità militari del Tigray. Gli osservatori internazionali sostengono, insomma, che la preoccupazione del governo federale siano le mire secessioniste della classe dirigente tigrina, e per contro la classe dirigente tigrina si sente un po' estromessa nella gestione anche del potere. È così? Abiy Ahmed, oltre a essere premio Nobel per la pace, è anche il primo ministro nella storia dell'Etiopia appartenente alla comunità Oromo, una comunità per lo più musulmana, maggioranza relativa in Etiopia, che era stata storicamente ai margini dei processi decisionali in Etiopia, mentre i tigrini, insieme con la comunità amara, erano stati a lungo al centro dei giochi politici. Dunque c'è anche un nodo effettivamente di ruolo politico, di rappresentanza politica, che va tenuto in considerazione nel tentativo di leggere questo conflitto, questa crisi e questo conflitto. Le informazioni che arrivano sono informazioni di guerra, evidentemente. C'è stata da parte di Makalè, da parte del presidente della regione del Tigray, la denuncia di un coinvolgimento militare dell'Eritrea negli scontri di questi giorni. L'Etiopia ha respinto questa ricostruzione, evidentemente dopo questo riavvicinamento con il presidente eritreo Isaias Afewerki, perfezionato, permesso dalla guida del governo etiope da parte di Abiy Ahmed. Però evidentemente emerge il rischio di un conflitto che necessariamente, abbiamo parlato di Sudan prima e dei rifugiati, abbiamo parlato di denunce su un ruolo eritreo, evidentemente investe un'area che è quella del Corno d'Africa, che oltre a essere una zona dove l'Italia ha sempre avuto un ruolo ruolo, anche un ruolo drammatico, penso all'Ambaradam, a stragi legate alla storia del colonialismo fascista e prefascista. Evidentemente è la zona della Somalia, quindi è una zona che anche nell'immaginario del racconto mediatico internazionale è un'area di conflitto, proprio in una fase in cui il presidente del Consiglio italiano Conte è stato in Etiopia, ci sono state delegazioni importanti anche penso al nostro governo tra i tanti, in un'area in cui invece si affacciavano speranze di una fase differente sotto il segno della pace.